infami! Allora, siccome so che state ascoltando lo zoo, adesso vi spiego un attimo il programma. Non ho capito, non lo posso fare qua. Dai, senza che facciamo gli infami. Allora, e un, due, tre! Alle due inizia lo zoo! Due, tre, mau! Due, tre, mau! Poi ci sono le scenette! Lite, mur! Lite, mur! Alle tre c'è l'Algo Mirko! Due, tre, mau! Due, tre, mau! Poi gli scherzi e le infamate! Lite, mur! Lite, mur! Qua. Questo è quello che potete trovare nello zoo di 105. Vabbè, ve lo rispiego. E un, due, tre. Alle due inizia lo zoo.